Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Chi è? Parola d'ordine. Imbecilli! Napri è uno che conosco io. Under the octopus with the stealing bones, ancient goblins and wallows come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Devo dire però che umanamente queste intercettazioni mi feriscono, perché in quella telefonata io sono molto molto molto duro con mio padre, e rileggendole un po' ti dispiace da uomo, da figlio, perché insomma fare un interrogatorio telefonico a tuo padre non è il massimo. Intanto vorrei dire che le intercettazioni pubblicate dal Fatto sono un monumento equestre a Matteo Renzi, il quale ne esce come uno che dice al padre, quindi anche con una delicatezza umana, diciamo, che si può immaginare, di la verità. Quindi un figurone da uomo, oltre che prima ancora che da statista. Siamo di fronte a un atto di barbarie, a un colpo allo Stato di diritto. A me fa veramente specie che Gomez, che ha una nobilissima carriera giornalistica, difenda un atto di questo tipo. Tra l'altro lo difenda in nome della legalità. Questo è un atto illegale, lo dobbiamo ribadire in tutti i modi. Che Matteo sapesse che la telefonata era intercettata e che la magistratura fosse all'ascolto, insomma, l'impressione è che sia tutto un po' finto. Soprattutto c'è quel passaggio in cui dice: papà devi collaborare con i magistrati, che sono persone splendide, i magistrati, con un'ottima igiene personale, un vigore sessuale del tutto invidiabile, i magistrati, viva l'Italia. Saluto anche da Vigo, che so che li ci ascolta. No, no. Gli ci metto sempre i like a da Vigo. Sì, va bene. Vabbè, Luca e Paolo la vedono così questa. La telefonata. Ormai da giorni si parla della telefonata. Anche oggi sui giornali è intervenuto anche Napolitano, ex Presidente della Repubblica, a dire: ipocriti, dove eravate tutti? Guarda, effettivamente da anni si parla di intercettazioni sui giornali. Signori, tra l'altro oggi un grande annuncio: Lorenzo Nespoli lo vede esultare come un gol del Milan nel 98 quando vincevamo le coppe. Perché da oggi siamo in diretta anche su Facebook, sulla pagina Facebook di Radio 24, sulla pagina internet di Radio 24, radio24.it, ci trovate, ci potete vedere. Non c'è l'audio, credo non c'è l'audio, cioè sono come dei manichini, mi muovo per Facebook. C'è l'audio, ovvio. Giustamente dice, non possiamo mettere solo il video e l'audio, no. Ci potete seguire anche così, su Facebook, sul sito di Radio 24, sulla pagina di Radio 24 e sulla pagina radio24.it. Evviva! Faccio un saluto speciale per tutti quelli che ci seguono su Facebook, vedi, agito la manina. Potete anche vederci alle 6:30 del mattino, questo è un vero dramma. Però alle 6:34 siamo qui con signori, i 23 gradi di sole e a Perth, dove Chiara, subito vedi, dice mi connetto con la webcam, brava Chiara, così ci puoi anche vedere. Tra poco ti mando un saluto a due mani. Eccoci qua. Ciao Chiara. Va bene, aspetta, ti devi connettere tra qualche minuto. In autostrada tra Piacenza e Parma ci sono 16 gradi, ci fa sapere Domenico. Mentre a Trinità Cuneo 16 gradi. Silvana urla forza Juve, non ho capito perché, però vabbè, problemi suoi. A Bologna ci sono 15 gradi e c'è il Giro d'Italia, ci fa sapere Marco. A Triuggio, e non lo dico mai, provincia di Monza e Brianza, ci sono 17 gradi, grazie Giulio per questa informazione preziosissima. Così come a Paolo, Spezia, 18 gradi e sole, che bello. A Perugia, 15 gradi, cielo sereno. Luciano dice: tienimi sveglio che devo tornare a casa. Sveglia Luciano! Sveglia! Allora, per parlare di... Buongiorno Milan, ma sì, questa signora Aurora Giussana ce la dobbiamo proprio tenere? Aurora Lussana, buongiorno. Beh, buongiorno, buongiorno, ciao. Buongiorno a te caro Milan. Un saluto alla Sciura lì e come sempre un saluto anche al maresciallo che ci ascolta. Aurora Giussana. Insomma, Aurora, oggi noi abbiamo chiamato un grande nostro amico. Io gli voglio mandare sempre un abbraccio, il grande magistrato ex Antonio Di Pietro. Eccolo qua, Di Pietro, buongiorno. Pensate quante intercettazioni ha dovuto ascoltare in vita sua Antonio Di Pietro. Se me ne passa qualcuno, gliela leggo la benedetta la sera prima di addormentarsi. Di Pietro, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti quelli che come lei questa mattina si sono svegliati con una particolare verba. Complimenti. Oh, ecco. Sono andato a letto presto ieri sera. Allora, sì, più o meno. Allora, la nostra Aurora Lussana dice che vorrebbe leggere qualche intercettazione alla figliuola, la benedetta piccolina, così per farla addormentare. Ma sono davvero noiose queste intercettazioni, cioè, quando... premesso che nell'inchiesta Mani Pulite non ne facemmo quasi nessuna, premesso questo, nel caso di specie voi se mi avete chiamato per sentire il mio pensiero sul punto, mi dovete prima dire: ma il mio pensiero sul piano politico, sul piano del diritto dovere all'informazione, sul piano... Cominciamo intanto, è illegale o no questa intercettazione sui giornali? La intercettazione... No, che finisca sui giornali, no, l'intercettazione. Torno a ripetere, sicuramente la pubblicazione di questa intercettazione, che era sottoposto ancora a segreto istruttorio ed era stata dichiarata inutilizzabile, è una pubblicazione illegale. Il problema di fondo è che chi ha commesso questo reato? Chiaro, qualcuno lo ha commesso il pubblico ufficiale, che può essere dal magistrato alla segretaria, alla polizia giudiziaria, perché voi dovete sapere che quando c'è un'intercettazione saranno almeno 20-30 persone che lo vengono appunto, questo è interessante, ma perché 20 o 30? Allora, i magistrati sicuramente. Perché cominciamo a vedere. I cancellieri. Quando ti dispone un'intercettazione, la prima cosa che devi fare è devi mandarlo a chi lo deve poi ascoltare. Quelli che devono ascoltare, dovendo ascoltare dalla mattina alla sera, saranno più di uno. Poi dopodiché devi mandarlo sempre al responsabile della polizia giudiziaria, che deve fare una sintesi di quelli che possono essere utili e non utili, perché al magistrato non li puoi mandare tutti quanti. Dopodiché, e quindi fai il cosiddetto brogliaccio, dopodiché il brogliaccio, individuati quelli che possono essere interessanti, vengono trascritti per intero. Immagini quante persone, poi va al magistrato, alla segreteria del magistrato, poi va all'archivio, eccetera, eccetera. Quindi c'è qualcuno, sono tutti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, che ha dato, non ha spifferato, fa il proprio dovere. Nel momento che ha spifferato non fa il proprio dovere. Nel caso di specie, questa intercettazione doveva rimanere sotto segreto istruttorio. È già un primo punto. Questo è già un primo punto. Altra cosa è ciò che fa il giornalista. Il giornalista, che ha il diritto dovere di informare... deve venire ad acquisire una notizia, e allora il suo lavoro è quello di acquisire la notizia. La colpa non è che si mangia il panino, è di chi ti dà il panino che non ti dà. Questo sì, però intanto Aurora è contenta perché ha letto questa intercettazione, dalla quale si evince che cosa? Ma tu sei una di quelle che pensa che babbo e figlio sapevano? Io personalmente, appresso ai telefilm, non ci vado, soprattutto appresso a questo telefilm, immaginare che questi, sapendo, si mettevano a programmare una telefonata, è bello il telefilm, senza alcun riscontro probatorio, e se si comincia a costruire il telefilm si crea un tale minestrone, un tale zabaione, per cui alla fine non si capisce più quella è la verità e quella è la bugia. Quindi io personalmente, senza prove, non credo alle costruzioni fatte apposta e le ricostruzioni del giorno dopo. Abbiamo un'intercettazione in cui c'è una oggettiva preoccupazione di una persona rispetto a quel che ha fatto il suo genitore, e quindi si preoccupa e racconta. Io sono uno che ho sempre criticato Renzi, sono al contrario della sua ideologia politica, però sono anche una persona che non dipendo da nessuno e non devo prendere decisioni per partito preso. Vabbè, nel caso di specie non c'è alcun riscontro, e quindi è un telefilm che non le piace. No, di telefilm c'è il 1992, infatti di telefilm ce n'è un altro. Adesso le chiedo qualcosa, però volevo chiedere a Aurora Lussana, Silvio Letti. Allora, a parte che preferivo le intercettazioni, quelle di qualche anno fa, che c'era anche un po' di robe donne, sesso, quelle robe lì. Vabbè. A questo punto, sì, no, c'ha ragione il Di Pietro. L'unica a questo punto, ragazzi, sai cos'è? Io parlo in bergamasco. Chiedevo a Di Pietro se mi intercetta il maresciallo, se io parlo in bergamasco. Sono tranquilla. Più o meno, diciamo che si arriva a tradurre perfino il bergamasco. No, però ti chiedo politicamente, Aurora, questa intercettazione, come ne esce secondo te Renzi da questa intercettazione? Renzino, come dice il papà, non è mica un Andreotti il ragazzo. No. Sia se è una messa in scena, perché ovviamente guarda caso proprio quel giorno lì, sia che invece davvero c'è qualche imbarazzo del ragazzo. Il papà è un pochino troppo bulletto come il figlio, quindi in quella famiglia lì c'ha ragione la nonna e basta. Ecco, c'ha ragione la nonna. Sì, perché in questa saga siamo arrivati anche a sentire la nonna. Nonna di Renzi. Vabbè, insomma, la questione, allora abbiamo capito Di Pietro che qualcuno ha dato qualcosa e non doveva farlo al giornalista, però si arriverà a capire chi è questo qualcuno oppure no? Perché non sarà difficile se 20 persone hanno in mano... Ma scusami, oggi Grasso dichiara, dopo 25 anni non sappiamo ancora la verità sull'assaggio di Falcone e Borsellino, bravo, ma vuoi sapere dell'intercettazione di Renzi? Ma sarà difficile scoprire chi diamine ha passato sta roba? La questione è molto semplice. L'unico elemento di prova lo sa chi ha dato l'intercettazione a giornalista Marcolillo, sì? E chi l'ha ricevuto. Il giornalista ha dalla sua il segreto professionale garantito dalla legge, quindi basta invocare il segreto professionale. Noi alle 8 e un quarto lo abbiamo in onda Lillo, io glielo chiedo, magari ci casca, dice chi te l'ha data, io glielo chiedo. Torno a ripetere, sono questioni che non è che puoi scoprire le prove documentari, o lo dice chi l'ha dato o la dite che lo dice chi l'ha ricevuto. Chi l'ha dato non lo dice, perché altrimenti se taglia le gambe da soli, chiamiamolo gambe. Chi l'ha ricevuta ha il segreto professionale, perché così ha garantito che un'altra volta glielo dà, quindi è una cosa che finirà con archiviazione a carico di ignoti. E vai. Attenzione, però il momento è sera, alle 6:43 minuti, si è svegliata Benedetta. Io l'ho sentita dire una parola che mi sembrava fosse Italia Unita. Questo mi sembra il nuovo partito? Sì, no, perché Aurora Lussana è leghista fino al midollo, caro. E quindi Di Pietro si è svegliato. Ha sentito Di Pietro, ha cantato anche Benedetta di fronte al magistrato di Preto, ha detto confesso. Però è bello quello che ha detto, che un tempo non è che si guardava l'intercettazione, si facevano delle belle indagini, dai. Che bei tempi quelli. Sì, adesso Di Pietro ha tutte le indagini con le intercettazioni. Si mette lì, si ascolta, si fa tutto. Comoda la vita. A proposito, ma sto 1993 com'è Di Pietro? Io ho visto la prima puntata e mezza. Mi lascia la riserva di vederlo. Il 1992, ripeto, al netto di tutto quel giro femminile che girava e che io non avevo visto nella realtà, è stato comunque una fotografia reale di quel che era la Milano da bere dell'epoca. Il 1993, sono curioso di sapere che piega ha preso, perché nel 1903 che è successo? Che da una parte l'inchiesta si è impennata, dall'altra la criminalizzazione e delegittimazione dell'inchiesta era iniziata, e quindi si cominciava a dire che noi lo facevamo per fini politici di qua, di là, eccetera, eccetera. Quindi sono curioso di vedere cosa ha fatto il regista, da che parte. Ma è già iniziato, ma io non ho ancora avuto modo di vedere. Non ho visto le prime due puntate. Siccome non so che piega ha preso, a me, ripeto, sul piano della scenografia è molto bella. Vorrei vedere se è anche una fotografia della realtà o una fotografia dell'immagine. Allora, intanto, oltre alle donne, sono comparsi anche i trans, glielo dico subito. Anzi, ci sono i leghisti che protestano. Oggi c'è una pagina di Libero dicendo: e perché c'è qualche leghista che va trans? E invece loro si difendono: no, a noi piacevano le femmine. Nel 92, in effetti, nell'inchiesta io indagavo sui reati, non per inclinazione sessuale. Vabbè, però qualche donnina forse c'era, non lo so. Lei non ci crederà, ma noi non è mai capitato di chiedere da che parte stava sul piano sessuale. Sì, ma sempre da che parte stava, se prendevo prendeva soldi o no. Va bene, Benedetta si sta inquietando. Questi sono discorsi che la inquietano. Dobbiamo andare al traffico e rientriamo subito dopo. Ciao Milan, fammi sentire il traffico. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. Macron non ha figli, è difficile avere figli quando ti sei messo con tua nonna. Oh Alessa, buongiorno, so Pinucci da Cerniola. Si innumere che uno. Beh, saluto a tutti qui della Rete 24. Ciao ciao. Buongiorno, sono Cammin Rael. Oggi decisi che oggi voglio sapere che progetto tiene Radio 24, altrimenti Alessandro Milan lo manda a Radio 24 a Manchester. Però di genere è importante, perché se io a lei le dessi del femminile, lei si risentirebbe, giusto? Riderebbe, rederebbe, e allora è la stessa cosa. Guarda, io non mi sento un nemico delle donne, perché l'ho detto al presidente della Camera, questo ci tenevo a precisarlo. Vabbè, niente, questa è la battaglia di Laura Boldrini. Io vorrò essere... Non toccarmi la Boldrini. No. Allora, tu chiamami giornalista. Quando mi chiamerai giornalista, io sarò felice, perché mi sarà dato del maschile e insomma sarò felice. Cosa vuol dire Benedetta? Ci deve dire qualcosa di importante? È la prima volta che sentiamo la voce di Benedetta in radio. Sì, attenzione. Infatti le sto rileggendo l'intercettazione a vedere. Si è riaddormentata. No, si è inquietata a sentire quelle robe qua su Renzi. Poi sai, siamo in clima precongressuale, domenica siamo a Parma, col congresso è un po' nervosa. Domenica siete a Parma a fare come? Non avete appena fatto il congresso della Lega? Non avete appena fatto le primarie, mamma mia. Appunto, prima si fa le primarie, poi il congresso. Si capisce più niente. E nel congresso che succede? Viene proclamato. Dice, almeno i leghisti una viene volta. Cosa succede nel congresso? Viene proclamato segretario Matteo Salvini. No, non è d'accordo, Benedetto. Non è d'accordo. Mi ha tirato giù l'iPad con la rassegna stampa, che stavo leggendo il pezzo di sui leghisti. Niente. Sì, no, sì, però è vero, escono un po' caricaturali, le dissi nel 93. Ah, tu l'hai visto? Vanno un po' troppo a trans. Questa è la verità. Vanno un po' troppo a trans. Non è un reato andare a trans. No, non è un reato andare a trans. Però si registra questa cosa, che in 1993 i celoduristi vanno a trans. Vede Di Pietro poi quando vengono toccati nel nerbo, sì, vabbè, insomma. Di Pietro le robe le sa. Ecco, Di Pietro le sa, Di Pietro le sa. Le robe le sa, quindi può parlare. Quante robe sa Di Pietro? No, Di Pietro è una persona intelligente, poi ha sposato una bergamasca, quindi sicuramente... È sicuramente intelligente, perché la nostra parola lussana è bergamasca, caro Di Pietro. Sono pronto a confessare, qual è la domanda? Quante cose sa Di Pietro che non ha mai detto? Quante cose sa? Una cosa che mi è rimasto qua sul gozzo, davvero, parlo sul serio. Lo dica adesso. No, per l'amor di Dio, l'ho detto anche pubblicamente, ma questa è qui, è la seguente cosa. Tutti hanno detto che ho fatto una grande inchiesta, quando ho fatto l'inchiesta sull'Enimont, che abbiamo scoperto all'epoca... La maxi tangente. Capisce, 150 miliardi di lire di tangente, 75 milioni di euro. E tutti hanno detto, cavolo, hai visto che ha scoperto? Il problema è che quella era la provvista. Il vero investigatore deve trovare non solo i soldi che ha messo da parte Gardini in quel caso per pagare la tangente, ma anche a chi le ha date. Allora mi sono messo a cercare a chi le ha date. Per circa la metà, circa 75-80 miliardi di lire, ho trovato a chi le ha date. Per gli altri non sono riuscito a trovarle. E ma come mai? Non sono riuscito a trovare la prova. E siccome a quei tempi certe fughe di notizie non uscivano, la prova ce la... Io un sospetto di sapere chi sono andato. E ce lo dica! Ce lo dica! Credo di sapere. Ce lo dica Di Pietro, ce ma lo dica. Siccome non ho la prova, ho dovuto sempre mangiare la lingua. Però a suo tempo chiesi anche, rispetto ad alcuna, a una parte di questa somma, chiesi anche a chi lo sapeva. E ogni tanto continuo a chiederglielo. E non me lo vuole male dire. Se ce lo volete chiedere voi. Ho capito, se non so chi è. Allora, era una rogatoria allo Stato del Vaticano. Papa Francesco, diccelo. non è facile. Porcaccia ma miseria. Non lo sa neanche lui. Forse mannaggia. Aurora, tu ci arrivi a Papa Francesco? Potremmo chiedere. No, sai che a me piace più il Papa Emerito. Lo sai. A Papa Ratzinger, dai, va bene. Chiediamo anche a Papa. Anche Papa Ratzinger lo saprà. Sì, questo guardate, punto. Credetemi, parlando seriamente, il concetto è questo: che l'inchiesta Mani Pulite è basata molto sulle cosiddette rogatorie agli stati esteri. Che hanno collaborato in tanti. Tranne il Vaticano. Lui non ci ha voluto sentire a suo tempo. Mannaggia la miseria, no. Allora, noi vogliamo chiudere. Abbiamo iniziato una straordinaria rubrica da un po' di tempo, che sono le metafore di Bersani. Qua bisogna... ce n'è una oggi che riguarda. Per me la metafora se fatta bene, a far capire con immediatezza un concetto anche magari non semplice a volte a tutti quanti. Devo dire che la metafora di oggi, sentila bene, soprattutto Aurora, sentila bene, perché potrebbe aiutarci. Allora, Bersani. Quando sono qui a Roma la spada si ammosce un po', ma il giorno dopo riprende vigore a Radio Padania. Cosa significa? Cosa significa? Parla dei leghisti, ovviamente, cara Aurora. La spada che si ammoscia un po' a Roma. Non lo so, sai che noi per statuto in Lega non ci si può ammosciare niente, perché sennò vieni espulso se ti ammosci. Via. Per fare il militante in Lega non puoi avere robe mosce, non so, nel PD, nel pool, suo partito. Però Bersani mi piace, un uomo piace. Non lo so. Non so se guida il trattore come Di Pietro, non credo. Sì, mi sembra bello maschio. Che cosa significava Di Pietro con questa metafora Bersani, secondo lei? Io credo che si sia impappinato un po'. I leghisti con la spada con la spada moscia a Roma. Ci azzecca poco queste questioni. Vabbè. Dai, allora, buon 1993. Però lo guardi la prossima volta, così ci dice un po' se... Però l'attore, devo dire, che fa Di Pietro è bravissimo, Ripeto, lui è bravo, fossi io bravo come lui. No, per un futuro nel cinema, no. Ringrazio Antonio Di Pietro e Aurora Lussana, alla prossima. Poi all'inmila e lì gestisci una lanciano di Yamia 24 mattino. Sono le 7:19 in punto, orario ufficiale di Radio 24. Tutti gli altri orari non contano, dovete regolare la vostra giornata in base alle nostre alla nostra scansione temporale. Allora siamo qui con Peter Bescapè in regia, Lorenzo Nespoli in redazione. Siamo pronti nello spazio della lettura dei quotidiani e la rassegna stampa di 24 mattino. Andiamo, ragazzi! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo arrivati a giovedì 18 maggio, uno sguardo rapido ai titoli. L'apertura del Sole 24 Ore, i rimborsi fiscali saranno più rapidi, 30 giorni in meno, pronto il piano per ridurre i tempi. Poi molti quotidiani aprono sull'attualità dagli Stati Uniti, perché Donald Trump, presidente americano, rischia, secondo molti, l'impeachment. Russia Gate, meglio leggerlo così, la beffa di Putin, o Russia Gate, se volete leggerlo all'italiana. È l'apertura del Corriere della Sera. Per Repubblica, attacco a Trump, non mollo, l'ombra dell'impeachment. Il Messaggero, Trump rischia lo stato di accusa. Per La Stampa, bufera Russia Gate, i democratici, inchiesta su Trump. Anche il Giorno, attacco a Trump, questo è il titolo di prima pagina, e Avvenire, messa sotto accusa, Trump ora rischia. Come vedete, molti quotidiani scelgono l'attualità americana. Poi in Italia c'è sempre la questione della telefonata, la telefonata Renzi-Renzi. Il Fatto Quotidiano: vogliono imboscare tutto, questo è il titolo di prima pagina. La Verità invece ha un'altra vicenda, un altro aspetto della vicenda Consip in prima pagina. Il denaro sotto la mattonella per papà Renzi, ma nessuno lo cerca. L'imprenditore Romeo in carcere, intercettato mentre parlava con Carlo Russo, amico di Tiziano Renzi, dice: ha apprezzato? Sì, l'ha apprezzato. Eppure si parlava anche di una mattonella, secondo La Verità, in questa intercettazione ambientale. Eppure non c'è stata alcuna perquisizione in casa di papà Renzi. Allora, queste le notizie principali, ma voglio partire dalla legge sul cyberbullismo. C'è stato il sì definitivo alla Camera e molti quotidiani, La Stampa per esempio, mette a pagina 2 e 3 questa novità, se non altro importante dal punto di vista legislativo. C'è stata l'approvazione definitiva di quella che anche per il Corriere della Sera deve essere definita un po', se volete, la legge Ferrara, cioè senatrice del Partito Democratico Elena Ferrara, che tra l'altro era un ex insegnante di Carolina Picchio. Ne abbiamo parlato di Carolina Picchio, ragazza che a 14 anni si è suicidata, vittima di cyberbullismo, dopo aver lasciato dei messaggi anche: ciao ragazzi, grazie per il vostro bullismo, ottimo lavoro, e poi ha aperto la finestra e si è buttata di sotto, togliendosi la vita. Ebbene, è proprio dallo spirito della senatrice Ferrara, ex insegnante di Carolina Picchio, dalla tenacia del padre Paolo Picchio, che abbiamo avuto ospite, padre di Carolina, che si è mossa questa legge, che alla fine è arrivata a un iter definitivo, all'approvazione alla Camera. Oggi tutti i giornali raccontano, anche per esempio Il Giorno, un'intervista a Paolo Picchio, dice: la mia battaglia va avanti, devo salvare tanti giovani. Quali sono gli elementi principali di questa legge approvata? Intanto, per la prima volta c'è una definizione di cyberbullismo: qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni realizzata per via telematica. Dunque soltanto minorenni, perché è solo in questo caso che aziende come Facebook, Google, Twitter, Microsoft hanno assicurato la loro disponibilità in caso di rimozione dei contenuti dalla rete. Dunque minorenni. Il minorenne che fa un atto di cyberbullismo può essere richiamato dal questore, dunque il capo della polizia, e ammonito. Poi un altro punto importante è che anche i minori possono denunciare. Il minore con più di 14 anni, vittima di cyberbullismo, può chiedere direttamente al gestore del sito o dei social di oscurare, rimuovere o bloccare i dati sotto accusa. C'è tutto un punto sull'educazione, ovviamente, al web, i corsi per insegnanti da parte della polizia postale, tavoli di lavoro. Ovviamente non è che con una legge, come al solito, si risolvono i problemi che sono spesso culturali e sociali, questo è scontato. Però intanto la legge c'è. In ogni scuola, per esempio, sottolinea Repubblica, ci sarà un docente antimolestatori, chissà se poi in ogni scuola. Comunque l'idea di trovare nelle scuole anche quei, giustamente, intercettare quelle prime problematiche che si registrano. L'Istat invece ha diffuso ieri la 25esima edizione del rapporto annuale. È la solita fotografia dell'Italia, una fotografia in cui ovviamente ci sono tantissimi elementi. Alcuni sintetizzati dai giornali sono quelli che colgono più l'attenzione. Intanto l'età media in Italia è 42,5 anni delle famiglie a basso reddito con stranieri. E l'Italia, questo è il titolo più gettonato, l'Italia dei 35 anni che stanno ancora a casa con i genitori. Lo sapevate? Su 10 millennials, cioè giovani nati tra i primi anni 80 e il 2000, 7 stanno ancora a casa coi genitori. Ma è anche un'Italia molto invecchiata. Siamo il paese più vecchio d'Europa, il secondo al mondo, solo il Giappone tra i paesi ovviamente no, considerati più importanti. Siamo il paese più anziano dell'Unione Europea, nel mondo siamo secondi solo al Giappone. Al 1 gennaio del 2017 gli individui con più di 65 anni hanno raggiunto la quota del 22% in Italia e anche gli stranieri nel nostro paese cominciano a invecchiare. L'età media degli stranieri è passata da 31,1 anni a 34,2 anni, però insomma invecchiare ma di poco. Però, leggo per esempio dall'articolo di Alessandra Arachi sul Corriere della Sera, pagina 8, i nostri ultra sessantenni sono gagliardi e tosti, lo dicono le statistiche. Dal 2010 infatti è aumentato il numero di anni vissuto senza limitazioni nelle attività della vita quotidiana dopo i 65 anni, da 9 a 9,9 giorni per gli uomini, scusate anni, e da 8,9 a 9,6 anni per le donne, anni vissuti senza limitazioni nelle attività della vita quotidiana. Dunque siamo anziani, ma abbastanza in buona forma. E poi un altro elemento che viene fotografato dall'Istat, la classe operaia non c'è più, va in pensione, ma la pensione oggi è una sorta di piccolo paradiso nel marasma dei lavori atipici, precari a termine, è un po' la situazione quasi invidiabile. L'Italia che invecchia è uno dei dati, certamente il rapporto Istat 2017, e anche un'Italia che non ha più mobilità sociale, l'Italia che vede scomparire sia gli operai sia i borghesi, la classe media. E a proposito di Giappone, visto che siamo il paese secondo al mondo più vecchio dopo il Giappone, c'è una notizia che arriva dal Giappone che oggi finisce su tutti i giornali e che può far discutere, perché può far discutere tutti. Attenzione, la principessa Mako, che è, adesso io qua le dinastie giapponesi, vabbè, comunque è la secondogenita, la figlia del secondogenito dell'imperatore giapponese Akihito, cioè la nipote dell'imperatore. La principessa Mako ha deciso di rinunciare a tutti i titoli nobiliari, al cognome, al trattamento di corte, eccetera, perché vuol sposare un impiegato. Un borghese, un uomo comune. Ora già vi vedo voi dividervi, non importa se non conoscete la principessa Mako, se non conoscete la storia del Giappone, la storia dell'imperatore, la storia dell'impero, la storia della dinastia giapponese, non importa. Voi già potete farvi un'idea, dire: ah, brava, una che guarda all'amore, oppure ah, sciocchina, una che rinuncia a tutti i privilegi della corte, dell'impero. Non lo so, però la stampa: Giappone, la principessa Mako si ribella e sposa un borghese. La nipote dell'imperatore si unirà con un ex compagno rinunciando al cognome. Anche il giorno dedica una pagina a lei: rinuncio all'impero per amore. La principessa sposa un impiegato. Fa bene? Fa male? Non lo so. Io vi ricordo, se vogliamo tornare in Italia, due cose. La prima è la 211esima settimana in corso, decisiva ovviamente per l'abolizione delle province. Ma ormai la mia è fredda e glaciale ironia. Basta leggere oggi il Messaggero: controordine province vanno salvate e i Dem vogliono raddoppiare i fondi. Diodato Pirone racconta: da Cenerentole a principesse, che strano destino quelle delle province italiane, bombardate per anni oltre ogni ragionevole soglia, fino a spogliarle non solo della loro classe politica e dei 20.000 dei 43.000 dipendenti, ma perfino di quei pochi denari necessari per far funzionare i due settori del loro core business, la manutenzione delle scuole e le strade provinciali. Ora, d'improvviso è arrivato il controordine, compagni: raddoppiare gli stanziamenti a favore delle province per il 2017, moltiplicarli a partire dal 2018, così recita un emendamento alla manovrina presentato ieri da 33 deputati del Partito Democratico. In soldoni, la proposta di modifica propone di portare il contributo statale previsto per il finanziamento delle funzioni fondamentali delle province da 110 a 220 milioni per quest'anno e da 80 a 480 milioni a decorrere dal 2018. Ripeto, tutti quelli che mi criticano, io Alessandro Milan, io personalmente non sono per l'abolizione delle province, non me ne frega niente, cioè non voglio abolire le province. Denuncio da anni la ridicolaggine di chi per dichiarazioni, tutti i partiti, per anni hanno urlato appena eletti, aboliremo le province, e poi il risultato è come in tante cose che in Italia si fanno grandi annunci ma poi non seguiti da fatti. Quindi io non ho nulla contro le province, ce l'ho con la ridicolaggine, lo dico per la terza volta, di chi dice aboliamole e poi non lo fa. Ma siamo all'articolo che mi fa pinzare della giornata, l'articolo da Mani sul Volante se siete alla guida e appoggiate oggetti contundenti se siete come sempre a colazione. Ferruccio Sansa racconta sul Fatto Quotidiano questa cifra: sapete quanti soldi la polizia paga ogni anno a privati per affittare edifici privati quando siamo pieni di edifici pubblici? 45 milioni di euro. Eccoli qui, 45 milioni di euro buttati dalla polizia per l'affitto. Che ne so, 99 immobili tra sedi centrali, commissariati, autoparchi, solo a Roma, 73 di questi sono privati con canoni a molti zeri. Per la direzione anticrimine si spendono 11 milioni di euro l'anno. Per la direzione investigativa antimafia 8 milioni, per l'ufficio immigrazione 2 milioni, e sono i contratti più costosi. Ma non ci sono edifici pubblici? Certo che ci sono edifici pubblici, però questo è il mistero dei 45 milioni di euro buttati dalla polizia per l'affitto. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. State ascoltando un programma offerto da... Made in Steel, l'acciaio mondiale si incontra a Fiera Milano dal 17 al 19 maggio. Alessandro Milan, l'ultra capiente dell'informazione. Quello è Mauro Meazza che vorrebbe fare questo lavoro nuovo nell'industria 4.0, nel mondo 4.0, l'ultra capiente. Allora, è sempre scontro sulle intercettazioni. Oggi avremo ospite alle 8:15 Marco Lillo, protagonista di questa vicenda, perché giornalista del Fatto Quotidiano, ha pubblicato in un suo libro che oggi è in vendita, proprio allegato al Fatto, che cosa? L'intercettazione famosa tra papà e figlio Renzi, con il figlio Renzi che ha chiamato il papà dicendogli di tutta la verità domani agli interrogatori, alla vigilia proprio degli interrogatori nel caso Consip. La vicenda è sempre politica. Orfini, presidente del PD, in un'intervista all'Huffington Post riportata un po' da tutti i giornali, dichiara: questa è un'aggressione alla democrazia, un attacco alla democrazia. Devo dire che effettivamente le parole dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano forse sono le parole più sagge spese ieri e oggi sui giornali. Tutti ora gridano contro l'abuso delle intercettazioni e l'abuso della pubblicazione. Un'ipocrisia paurosa, perché è una questione aperta da anni, con sollecitazioni frequenti e molto forti da parte delle istituzioni. Io personalmente, aggiunto Napolitano, ho messo il dito in questa piaga. Non c'è mai stata una manifestazione di volontà politica per concordare provvedimenti per mettere termine a questa insopportabile violazione della libertà dei cittadini, dello Stato di diritto e degli equilibri istituzionali. Effettivamente, ma sono 20 anni che si va avanti così, ma Berlusconi, poi adesso Renzi, ma prima tutti abbiamo una banca. Le intercettazioni, diceva bene ieri Oscar Giannino, poi lo avremo, lo ribadirà, credo anche oggi, le intercettazioni vanno bene quando attaccano il nemico politico e vanno male quando attaccano l'amico. Ma dai, su, ma... niente, sembra che abbiamo le fette di salame sugli occhi e c'è questa grande ipocrisia e va bene, andiamo avanti così. In tutto Anna Maria Greco racconta sul giornale a pagina 3 che c'è una caccia al PM Woodcock. Questo è il titolo. Su che cosa? Sui falsi e le fughe di notizie. Perché Procura di Napoli e Toga finiscono sotto accusa, con un'alta tensione tra tribunali e un possibile apertura di fascicolo al CSM. Questo almeno raccontano i giornali, anche se le dichiarazioni ufficiali parlano così di situazione sotto controllo, però certamente la situazione non è molto chiara. A proposito di intercettazioni, torna in prima pagina la vicenda del capitano dei carabinieri Scafarto, quello della vicenda Consip, quello che è accusato di avere travisato l'intercettazione attribuita a Tiziano Renzi e di avere anche detto di essere seguito dagli 007 mentre indagava sul caso Romeo e sul caso Consip, ma in realtà era un vicino, insomma un cittadino comune, non era degli 007. Ebbene, il capitano Scafarto, colui che ha fatto le intercettazioni, che ha sentito tutte le intercettazioni, a sua volta è finito intercettato. Beh, ma anche questa è stupenda. Il capitano delle carte fasulle intercettato dice: pagherò io per Woodcock. Leggo da Francesco Grignetti, La Stampa, pagina 4, Scafarto intercettato, lo 007 inventato è stata una scelta investigativa precisa che ho condiviso anche con il PM napoletano. Alla fine, scrive Grignetti, a finire intercettato dai carabinieri toccò anche al capitano dei carabinieri Giampaolo Scafarto. Accade il 10 aprile scorso, ore 20:15. Scafarto nell'occhio del ciclone, perché in quelle ore non si parla d'altro che degli errori in cui è infarcita la sua informativa, si sfoga al telefono con un collega pari grado. L'omissione contestata è una scelta investigativa precisa che ho condiviso anche con Woodcock. Riferisce di pagare il conto per tanti e fa nomi pesanti il PM Woodcock, l'ex suo comandante Sergio De Caprio, al secolo capitano ultimo, il generale dei carabinieri Vincenzo Paticchio, attuale comandante della Legione Calabria. È con questa intercettazione che i PM di Roma nell'interrogatorio gli chiedono conto dei ripetuti errori e quando lui dice sono stati errori dovuti alla fretta gli chiedono: ma come? Se ci sono ben intercettazioni nelle quali lei dice che non sono stati errori, ma scelte investigative, allora chiarisca. E qui la vicenda si complica sempre più. Tra l'altro, volete complicarla ulteriormente? Leggete La Verità in prima pagina oggi. Si parla di una nuova intercettazione, il denaro sotto la mattonella per papà Renzi. Potremmo chiamarlo, scrive Giacomo Amadori, il ballo della mattonella, invece del ballo del mattone. Non si tratta di un lento, bensì del tira e molla, verificatosi tra la procura di Napoli e quella di Roma, intorno a un'intercettazione in cui figurava la parola mattonella e che per i carabinieri del NOE, quindi Napoli, perché lavorano con Napoli, nascondeva la notizia di un tesoretto in contanti nascosto a casa di Tiziano Renzi. Insomma, nell'ambito della cosiddetta inchiesta Consip, gli uffici giudiziari della capitale, del capoluogo campano, non hanno litigato solo sulle intercettazioni del babbo e dell'ex premier, ma anche sulla necessità di perquisire a Rignano sull'Arno la casa di Tiziano Renzi. Alla fine a Roma hanno deciso di perquisire solo la casa di Carlo Russo, coindagato, ma non casa di Tiziano Renzi, in cui, secondo questo articolo, si parla di soldi sotto la mattonella per Babbo Renzi, questo almeno è il titolo di pagina 3, ma i PM non perquisirono la sua abitazione. Caro Mauro Meazza, come stai? Ma bene, bene, caro Alessandro, bene, siamo intercettati. Spizzata, arriva Bonucci! Ma chi se ne frega? Ed è 2-0 Juventus. Secondo te, anche gli juventini, ad aver fatto il triplete come voi, come si sentono? È una bella sensazione. Ma non lo so, guarda, tipo, colgo la palla al balzo, perché oggi sul Sole 24 Ore si spiega che riparte l'asta per i diritti della Champions League 2018-2021 con, sai che c'era stata quest'asta Mediaset, certo. Sky, eccetera. Quindi è bello fare il triplete, ma, tu lo confermi. Ma che cos'è la Champions League? Non lo so. Perché, non so, forse cominciamo ad avere un ricordo sbiadito. Comunque, vabbè, tante congratulazioni per il triplete, naturalmente, già segnato quest'anno. E bravo, chi l'ha fatto sa cosa vuol dire. Infatti, io non lo proverò mai, mentre voi interisti sì e gli juventini pure, bravi. L'hanno già provato, volevi dire? Sì, cioè, voi interisti l'avete già provato e anche gli juventini. Esatto, in quel senso lì. Oh, ti segnalo sempre il Sole 24 Ore, importante. Anzi, volevo proprio cominciare da questo, poi mi hai distratto con questi audio molesti, che c'è il piano, forse arriva già con la manovrina, per ridurre di 30 giorni i rimborsi IVA, i tempi dei rimborsi esatto. IVA. Quindi è l'apertura. È un qui radiofisco, se vuoi, ma sì, riguarda però parecchia gente. E allora ti invito a leggere e anche un po' a meditare, perché no, la nostra pagina 3 con queste innovazioni gradite, molto gradite, che si sta cercando di implementare. Ti piace implementare? Mi piace, verbo. Implementare, ragazzi, signori. Un po' ricercato, chiedo scusa per la ricerca. Dall'Accademia della Crusca, Mauro Meazza. In diretta direttamente. Allora, terza puntata, sciocchina, anzi sciocchina, come dice la tua amica delle 6.30, sciocchina la terza puntata della guida allo Statuto del Lavoro Autonomo. C'è la deducibilità integrale delle spese di formazione, comprese viaggio e trasferta, per i professionisti. È importante, leggi, non perderti la terza puntata di questa guida sulle pagine di norme e tributi, naturalmente che tu leggerai religiosamente. Si sa. Avidamente compulserai le pagine di finanza e mercati, laddove tra le altre cose vedrai anche che è partita la gara per le offerte di Alitalia. Tu quanto puoi mettere? Sei interessato ad Alitalia? Abbiamo tempo fino al 5 giugno, pensiamoci un attimo. Alessandro, magari ne parliamo al bar, mettiamo insieme le nostre chiavette del bar e vediamo quanto tiriamo su. Oggi, naturalmente, col Sole 24 c'è Casa 24, domani ci sarà Moda 24, perché te lo dico, perché domani mi prendo un giorno di vacanza anche io. Veramente? Così, improvvisamente. Ma stavo... E quindi, caro Alessandro, ti faccio tanti cari auguri, perché siete impegnati con il Bologna. Noi invece andremo... Quindi domani non ci sentiamo. No, domani non ci sentiamo, caro Alessandro, perché un giorno così, a sorpresa, me lo voglio prendere anch'io. Va bene. Tu non perdere però né il Sole 24 Ore di domani e neanche Plus, che troverai sul Sole 24 Ore di sabato. Ok. Ti ho lasciato perplesso. Sì, con sono questa... un po' senza parole. Cioè, adesso devo parlare col direttore del personale, ma boh. Vabbè, vedi tu, insomma, poi è naturalmente una decisione da cui io posso recedere. Ci deve essere un'offerta congrua come per i diritti della Champions, di cui trovi sul Sole 24 Ore. Caro Alessandro, cari ascoltatori, per oggi, ma anche per domani, traffico! Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Alessandro Milan, è un po' il fritto misto dell'informazione. Il fritto misto dell'informazione. Va bene, alle 7:49 minuti siamo. Ci vedete anche in diretta sul sito radio24.it, in video, in audio. Saluto a doppie mani per tutti coloro che ci seguono in diretta sul sito radio24.it. Allora andiamo negli Stati Uniti, in America. Perché? Perché Trump ora rischia grosso. Ebbene sì, troverete la parola impeachment, atto d'accusa, sui giornali. Trump rischia su Comey. Su che cosa rischia? Attenzione, no, perché si sono intrecciate due storie. Abbiamo detto del fatto che abbia svelato ai russi, al ministro degli esteri Lavrov, dei segreti, delle informazioni top secret. Non è questo il motivo per cui Trump rischia l'impeachment. Il motivo è un altro. Il presidente avrebbe chiesto all'ex direttore dell'FBI, poi licenziato, di insabbiare il caso Flynn, il caso cioè dell'ex consigliere della Casa Bianca Michael Flynn e dei suoi rapporti con Mosca. C'è una frase sui taccuini dell'ex capo dell'FBI Comey. Questa frase, da smentita da Trump, è che Trump avrebbe detto all'ex capo dell'FBI: spero che tu possa lasciar perdere questa storia. Ecco allora, come racconta Marco Valsania sul Sole 24 Ore, pagina 6, che si stringe l'assedio a Donald Trump. I taccuini dell'ex direttore dell'FBI, James Comey, lo accusano nero su bianco di possibili interferenze nelle indagini sull'ex consigliere della Casa Bianca Michael Flynn. E le commissioni intelligence di Senato e di supervisione governativa della Camera hanno deciso di vederci chiaro. Hanno invitato Comey a testimoniare di persona. E questo potrebbe far precipitare la crisi nella Casa Bianca. Signori, io avevo detto chissà quanto rimarrà 5 mesi al potere, perché poi non lo so, non voglio essere un facile profeta, vedremo, insomma non è che mi auguro che Trump cada, ma certo bisognerà vederci chiaro. Tutti i giornali raccontano, per esempio anche il Corriere della Sera si spinge già a chiedersi cosa rischia il presidente, un'intera pagina 5, ricordando che nella storia americana nessuno della Casa Bianca è stato mai deposto così con la procedura di impeachment. Certo, c'è stato il caso di Richard Nixon. Quando è iniziata la procedura di impeachment, si dimise per lo scandalo Watergate nel 1974, quindi l'iter era appena cominciato al Congresso. Poi ci sono stati il caso di Bill Clinton, Monica Lewinsky, Andrew Johnson anche. Però la procedura è molto complicata, racconta il Corriere. La Costituzione americana, la sezione 4 dell'articolo 2, descrive i poteri e prerogative del capo dello Stato e stabilisce che il presidente, il vice e tutti i funzionari degli Stati Uniti saranno rimossi dall'incarico sulla base di un'accusa, ecco qui l'impeachment, e di una condanna per tradimento, corruzione o altri gravi crimini e misfatti. Certo, l'ostacolo alla giustizia, se provato, cioè l'ostacolo dicendo a James Comey lascia perdere, è una cosa grave negli Stati Uniti, molto grave, molto seria. In tutto questo, invece, per ritornare all'altra questione che si è intrecciata in questi giorni sulla Russia, nel vertice italo-russo a Sochi, al termine di questo vertice, Vladimir Putin, presidente russo, ha detto: non ci sono segreti, se volete potrò anche rendere noti i verbali, lo stenografico, quello che si sono detti Trump e il ministro degli esteri Lavrov, il mio ministro degli esteri, in questo incontro. E quindi, anzi tra l'altro Putin ha fatto anche una battuta, ha detto: dovrei rimproverare Sergei Lavrov perché di ritorno da Washington non ha svelato a me e ai nostri servizi alcun segreto. Quasi anche un po' a depotenziare quello che è successo. Va bene, diciamo che questo è... che dire? Siamo alle notizie di cronaca. Oggi devo dire che non ho la carta costa, non ho trovato niente di carta costa. Quindi c'è Lorenzo Nespoli che mi guarda, è arrivato in studio, molto stupito. No, devo fare una premessa. Mi sono dimenticato di scegliere un articolo da carta costa. Faccio questa missione alle 7.54. Quindi adesso, mentre vi dico questa notizia di cronaca, devo inventarmi qualcosa sulla carta costa. Allora... la notizia di cronaca che vi voglio sottoporre, l'ultima, è quella dei migranti. Non ci sono stati sbarchi in questi due giorni e voi dite: vabbè, che cosa c'è di normale? Ricordate che qualche giorno fa vi ho detto che per il G7 a Taormina, settimana prossima, da settimana prossima, ma è già in vigore da questa settimana, c'è il divieto d'attracco di qualsiasi nave in Sicilia per questioni di sicurezza. E il giorno fa notare: da due giorni è calma piatta. L'ultimo grande arrivo di migranti risale al 13 maggio, 5 giorni fa. 484 vivi e purtroppo 7 morti portati a Trapani da una nave militare. Niente sbarchi dalla Libia. O la Libia controlla, oppure gli scafisti sanno di questa G7, il divieto d'attracco, e quindi si comportano di conseguenza. Va bene, eccolo qua, dai, l'abbiamo trovata la carta costa in 448. È una pagina su Libero, o meglio mezza pagina su Libero, relativa alla serie straordinaria, peraltro, 1993, con la Lega che si lamenta perché nella fiction sono ripresi troppi leghisti che vanno a trans. E allora, mezza pagina di Libero, la Lega si lamenta per qualche trans di troppo. Ma chi se ne frega!